Bentrovati, ci siamo trovati. Partiamo da questo titolo. Pane o libertà. È un'alternativa a cui ci siamo trovati di fronte in molti durante la pandemia e soprattutto subito dopo. Non è pane e libertà, sarebbe un desiderio. Pane o libertà è una situazione che credo abbiamo vissuto tutti. E in questo caso, come sempre, io con il gruppo di persone con cui lavoro, la compagnia, chiamiamola giustamente così, ogni volta che ci troviamo di fronte a un ostacolo, un problema, un blocco, un'ostruzione, un intoppo, cerchiamo di usarlo come trampolino creativo per stimolarci delle idee e non farci abbattere. Come si costituisce questo spettacolo? Come nasce? Molto semplice. È già nato durante proprio il periodo del lockdown, quando noi non ci siamo fermati di fronte agli ostacoli che ci ponevano anche gli algoritmi ministeriali, ma abbiamo continuato a lavorare rispettando le regole sanitarie, però abbiamo continuato a lavorare per strada, nei caffè teatri, soprattutto in molti cortili tra Bolzano, Milano. A Milano i cortili dei Casal Cortile sono dei teatri elisabettiani, no? La gente sta alle finestre, le ringhiere sono dei balconcini, qualche persona in cortile con le sedie portate da casa. E lo spettacolo come spirito soprattutto è nato lì, perché abbiamo avuto a che fare con, non solo con la realtà, quello che sta fuori dal teatro, ma anche con un pubblico che magari non era avvezzo a frequentare queste chiese, queste cattedrali che sono poi teatri, soprattutto quelli più tradizionali. Com'è la messa in scena, l'allestimento? La messa in scena è la promozione di una promozione, promozione intendo autosponsorizzazione, nel senso che dopo che abbiamo avuto questo periodo così molto gestito autonomamente, in piena autonomia, portando anche il teatro in luoghi dove veramente il teatro non era mai arrivato, guadagnando poco ma divertendoci tantissimo, e ci siamo convinti che stavamo facendo un lavoro molto utile e nobile, che era quello di abbassare un attimino la cresta, come ci è capitato forse in ere passate, e limitarci e spingerci all'estremo in questa direzione, nell'essere in fondo un genere di conforto. Il sano intrattenimento, e sottolineo due volte il sano, è un genere di conforto, ma conforto laico, nobile, nel senso che anche sulle barricate chi porta i panini e le pizze e l'acqua ha il suo ruolo da lodare, e questo abbiamo fatto in quel periodo, l'abbiamo fatto dopo, abbiamo scoperto anche un modo politico basato più che su parole, su azioni, andare in periferia, e soprattutto la periferia della cultura, visto che il centro della cultura era stato completamente abbandonato. E dico promozione per i nostri lavori. Noi ci proponiamo lo spettacolo Un Depliant, ci proponiamo per matrimoni, battesimi, funerali, divorzi, liberazione di ospizi, riunioni condominiali o circoncisioni, tutto quello che è un evento con cui ha a che fare una comunità, anche perché il teatro, sempre più convinto dopo quel periodo di cui parlavo prima, prima di tutto deve essere un luogo di relazioni sociali, dopodiché c'è un magneto, una calamita che è lo spettacolo, che se è di qualità chiaramente meglio. Sul palco sono io, assieme a dei saltimbanchi musicisti, i virtuosi, per l'appunto virtuosi del Carso, perché io ormai ho preso residenza a Trieste e i musicisti vengono più o meno da lì. C'è anche un pugliese, ma c'è il calcare, è lo stesso del Carso, quindi si sono definiti così. E quindi noi ci proponiamo, e ti dirò la verità, lo spettacolo poi continua anche dopo lo spettacolo, perché molti si prenotano anche per serenate, ninne nanne. Da comici condotti, una volta c'erano i medici condotti, noi siamo i comici condotti, e in effetti a oggi su 10 richieste 6 o 7 dello spettacolo non sono di luoghi deputati teatralmente e vanno da una festa, e il teatro dovrebbe essere sempre una festa, a il signore pugliese che ha adibito la sua cantina di vini a teatro con tanto di gratis e 300 posti, a Festival dei Malfattori o ai caffè teatri, siamo pronti a tutto. In conclusione, Paolo, di fronte alla scelta pane o libertà, Paolo Rossi cosa fa? Tutte e due. Lo spettacolo Pane o Libertà a Roma, Teatro Vittorio. Fate presto, perché prima sembrava che non ci fosse nessuno, adesso pare che si stia esaurendo in pochi giorni, e ci tengo molto che lo veda la gente giusta, insomma, non, perché qui a Roma rischia di venire solo attori, aspiranti attori, registi, aspiranti registi, critici, aspiranti critici, no, che venga più gente giusta possibile. Fate in fretta, perché comunque poi ci potete prenotare comunque per qualsiasi evento. Lo spettacolo Pane o Libertà a Roma, Teatro Vittoria, dal 21. Dose di improvvisazione altissima, quasi l'80%. Benissimo. Quindi chi viene lì dal vivo, che è meglio che dal morto, ha il privilegio di vedere una cosa che non vedrà quella della sera dopo e neanche quella della sera prima. Se proprio siete attaccati al divano, portatevi il divano in teatro. Vai. Dal 21 al 26 febbraio 2023, un saluto e un ringraziamento a Paolo Rossi. Grazie a voi. Ci vediamo a teatro. Ciao, ciao. Con Valeria Freiberg, direttrice artistica della prima edizione di Sogno Fest, a Tivoli dal 20 al 26 febbraio 2023, ben trovata. Grazie, buongiorno, grazie mille. Ce lo presenti? Questo festival meraviglioso è dedicato a Hans Christian Andersen, perché quest'anno ricorrono 190 anni dalla visita di Andersen a Roma e quindi anche a Tivoli, e pochi sanno che l'immortalità di Andersen è dovuta proprio alla città di Tivoli, dove lui cominciò a scrivere la Sirenetta che lo rese immortale. Quindi noi riportiamo questo festival Andersen, questo autore, alla città di Tivoli, e quindi anche riscopriamo le favole di Andersen nella sua creatività. C'è un altro particolare molto curioso, che a Copenaghen c'è un monumento di Andersen che guarda un parco, e questo parco si chiama Tivoli. Per cui, insomma, questo grande legame ci sembrava molto interessante ricalcare, rivisitare e rileggere Andersen insieme ai bambini. Per cui il Sogno Festival è il sogno di Hans Christian Andersen. Come nasce il progetto? Il progetto nasce proprio dalla curiosità, dall'interesse di scoprire la letteratura dell'infanzia, che in questi ultimi anni è stata veramente molto trascurata dal punto di vista di contenuti. Quindi rivisitare Andersen, che fra l'altro è un grande scrittore, e ricordare anche agli adulti che la scrittura e il teatro per i bambini non è una cosa solo ludica. Solo i grandi nomi della letteratura, del teatro, si sono occupati della formazione culturale dei giovani, dei bambini in particolare. E siccome la nostra compagnia da anni si occupa, si interessa soprattutto al pubblico dei giovani, questo festival è una specie di continuità, insomma, della nostra idea del lavoro con il pubblico dei giovani. Questo è il secondo festival, tra l'altro, dedicato ai minori e ai giovani. Il primo è Roccafest, sempre realizzato con il Comune di Tivoli, e questo è il secondo dedicato ai bambini. Diciamo che il nostro target sono ragazzi più grandi, soprattutto adolescenti e giovani, under 30. Invece questa volta cerchiamo di capire come si fa a lavorare con i più piccoli. Come sarà articolata la settimana? La settimana è ricca di eventi, perché ci sono spettacoli, ci sono i laboratori formativi, culturali, incontri con le case editrici, lettura dei libri, letture drammatizzate, e quindi abbiamo pensato di creare una specie di discorso unico fra cui tutte le arti si incontrano, e sempre girando però intorno alla creatività di Andersen, e anche l'allestimento stesso è stato pensato come la casa di Andersen. Quindi cerchiamo di creare le atmosfere fiabesche, cerchiamo di ricreare le atmosfere delle favole e soprattutto dello spirito di Andersen. Quanti sono gli spettacoli in programma? Gli spettacoli sono tanti, sono tutti tratti dalle favole di Hans Christian Andersen, novelle, tra l'altro li chiamano favole da poco. Quindi c'è La regina delle nevi, ci sono I vestiti nuovi dell'imperatore, L'acciarino magico, La sirenetta, Il tenace soldatino di piombo e così via. Quindi praticamente sono tutte le favole più conosciute di Andersen saranno rappresentate o saranno lette, perché ci sono letture drammatizzate musicali e ci sono gli spettacoli multidisciplinari, appunto, per scoprire la storia in maniera più approfondita, più attualizzata, si può dire in questo modo. Chi sono gli artisti e le artiste che animeranno il festival? Ci sono la compagnia teatrale, ci sono la casa editrice Albero delle Matite, che sarà presente con diversi autori che parleranno con i bambini, anche con gli adulti, fra l'altro, quindi ci sono le attività dedicate anche agli adulti. Poi c'è una mostra permanente molto bella dell'artista laziale, romana, Marina Longo, che racconterà tramite le sue ceramiche d'arte le storie delle sirenette. Ci sono giovanissimi attori, ci sono attori più famosi, insomma, ci sono molte persone che si sono dedicate appunto alla creazione di questo festival con grande passione e grande amore. Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma? Per vedere il programma basta andare sul nostro sito, gestito dal nostro ufficio stampa Monica Menna, che ringrazio, è www.compagniateatroa.it, oppure ci possono vedere anche su Instagram, basta trovare la nostra pagina Compagnia Teatro A, e quindi raccontiamo in maniera abbastanza approfondita il programma giorno per giorno, presentando gli spettacoli, appuntamenti, laboratori e tutte le attività che saranno svolte. Prima edizione di Sogno Fest a Tivoli dal 20 al 26 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Valeria Freiberg. A presto! Grazie a voi, a presto, grazie mille. Con Tano D'Amico per presentare la sua mostra fotografica Via degli Zingari a Roma, libreria Libri Necessari, dal 24 febbraio al 1 aprile 2023. Ben trovato. Ciao a tutti, grande felicità per essere chiamato ancora da Radio Onda Rossa. Raccontiamo questa mostra, Tano. Saranno delle immagini che si sforzano di evocare la vita degli zingari, un gruppo umano diverso da tutti quanti noi, è una brutta parola, ma è una dimensione che noi abbiamo perso, che abbiamo dentro ma non la portiamo fuori, gli zingari la portano fuori. Ecco, è quella di una vita che non vuole nemici, che non vuole arrivare in alto, che non fa torri, che non fa dei grattacieli, ma è una cultura orizzontale, che non vuole muri, che ama il viaggio, anche se ora è impossibile per gli zingari continuare il loro viaggio, perché non esiste più terra, non esiste più erba, non esistono cavalli, non esistono più spazi. Ecco, io mostro delle immagini in cui si vedono delle persone che sopportano questa vita, tentano di opporsi, e questa vita per loro è piena di dolori, anche di lutti, è piena di musica ma è piena anche di pianto. Ecco, si parlerà anche di una bambina di 16 giorni che è stata calpestata durante un intervento di polizia ed è morta, e nessun giornale ne ha mai parlato, mai. Ecco, questo per dire che viviamo in un paese pieno di omertà. Tano, come nasce l'idea di questa mostra? L'idea si deve a Matteo Di Castro, che è un uomo molto buono, un uomo molto colto, che si è imbattuto nelle mie immagini degli zingari. Allora ha pensato di mettere su una mostra proprio in via degli zingari, che il 24 alle 18 si apre, e quindi possono intervenire tutti e possiamo parlare tutti quanti insieme. Quanti scatti hai messo in esposizione? Io non conto mai le immagini, perché divido le immagini non per numero, per argomento, ma per bellezza. Cioè, le immagini per me sono o brutte o belle. Ecco, le immagini brutte provocano un'amarezza, provocano tante cose brutte. E le immagini belle invece non fanno mai male. Le immagini belle si fanno amare e basta. Sono delle immagini belle, mi illudo. Ma sono delle immagini belle. Che periodo coprono? In quanto tempo le hai realizzate? La mia vita sono gli zingari della mia vita, cioè i miei incontri con loro, e non sono in ordine di tempo. Nella vita i ricordi, almeno nella mia, non è che sono scanditi per anno, si presentano tutti insieme e si accostano l'uno con l'altro, come in certi film, no? Che noi vediamo il flashback, poi si va avanti, si torna indietro, e anche in questi miei incontri, in cui bisogna dire che gli zingari mi hanno dato cose a cui io non avrei pensato mai, mi hanno fatto fare dei pensieri, trovare fili per la mia vita che non avrei mai incontrato senza di loro. Come hai pensato l'allestimento? L'allestimento è opera di Matteo e della signora libraia degli zingari. Anche lei è una persona meravigliosa che si è prestata subito. E quindi ci hanno pensato loro. Io sono per gli allestimenti che suscitano emozioni. Però bisogna dire che le cose brutte e belle sono belle in sé o brutte in sé. Questo è un allestimento spartano, bellissimo e curatissimo. Curatissimo, come tutto quello che viene fatto da Matteo e tutto quello che viene fatto nella libreria bellissima, che è anche un sotterraneo romano antico di Via degli Zingari. La mostra Via degli Zingari a Roma, libreria Libri Necessari, dal 24 febbraio al 1 aprile 2023. Un saluto e un ringraziamento a Tano D'Amico. Un abbraccio a tutti. Grazie. Con Francesco Sala per presentare il suo libro Capitale Criminale, Gialli e Misteri della Città Eterna, a Roma, al Libri & Co, in piazza San Cosimato 39, mercoledì 22 febbraio 2023. Ben trovato. Grazie Federico, grazie a tutti voi. Che lavoro è questo? Capitale Criminale nasce inizialmente come podcast, come racconto dei fatti criminali della capitale, misteri gialli risolti e irrisolti, le pieghe criminali, i fatti del mondo di sotto, dei banditi a contatto col mondo di sopra, mondo misterioso. Raccontiamo tutti quei casi criminali che hanno, diciamo, contrassegnato la cronaca di Roma. Partiamo dal delitto Pasolini per poi arrivare al massacro del Circeo. Parliamo di un caso molto particolare di servizi segreti, quello della sparizione di Davide Cervia. Parliamo del delitto di Via Poma, della banda della Magliana. Tutto questo raccontato come un radiodramma, con l'interessamento non solo dell'inchiesta, ma anche dei personaggi, dell'umanità dei personaggi. È il contesto sociale che li porta al crimine, e in qualche modo c'è l'aspetto evocativo, emozionale, c'è l'irrazionale del male e c'è il razionale delle indagini. In tutto questo però c'è l'umanità, c'è l'uomo, c'è il racconto dei personaggi. Capitale Criminale racconta in maniera retrospettiva questi crimini che sono anche un po' inanellati tra loro. Si studia il caso Moro, poi si arriva anche a Pecorelli, poi si arriva anche ai Martinesi, poi si arriva alle Brigate Rosse, poi si arriva ai vari casi. Quindi è un monito. La storia, lo diciamo sempre, è lo specchietto retrovisore. Per andare avanti bisogna ogni tanto guardarsi indietro. Quante sono le storie che hai messo su carta e com'è stata la scelta? Le storie sono tante, più di 13-14 storie. La scelta è stata, mano a mano che si inanellavano dei racconti criminali, uno andava di conseguenza. Se noi iniziamo per esempio col delitto Pasolini, che è appunto novembre 65, ma l'estate prima, quella stessa estate, c'era stato il massacro del Circeo, tanto che Pasolini aveva commentato i fatti del Circeo, parlando di una Roma bene, e molte virgolette. E tre giorni dopo il delitto Pasolini si è celebrata l'udienza del processo per il tentato golpe Borghese, quindi c'è una puntata che parlerà proprio di questo. Poi faccio un viaggio nel tempo e racconto per esempio di Mastro Ditta, un racconto di Beatrice Cenci, racconto di una Roma sparita, dove il fatto criminale era addirittura determinato dalla Chiesa, dal potere temporale della Chiesa, quindi questo è un paradosso. Oppure parlo anche di Nerone, imperatore pazzo, punto interrogativo. Sappiamo che Nerone è stato vittima anche di numerose fake news. Ecco che l'elemento storico si intreccia sempre con l'attualità. Il titolo Capitale ha chiaramente più sensi, immagino. Bravissimo Federico, perché sì, è il capitale come città, ma è anche il capitale criminale. Cioè, parlando per esempio con il giudice Otello Lupattini, il caso della Banda della Magliana, lui mi diceva: guarda che certe professionalità non vanno in pensione, certe professionalità rimangono, si perfezionano, e quando riaffiorano ciclicamente storie criminali della capitale, noi per capirle dobbiamo capire che cosa c'è stato dietro, il contesto storico, da dove vengono quelle storie, perché gemmano continuamente e si evolvono. C'è una puntata, per esempio c'è un capitolo, io a volte faccio confusione tra puntata e capitolo, ma l'avete capito ormai, c'è un capitolo che riguarda per esempio la mafia nera, la mafia nigeriana. Se ne parla molto poco, ma sono storie agghiaccianti, sono storie di tratta delle schiave, sono storie anche di identità rubate su internet, anche di professionalità che operano tutti i giorni in maniera silenziosa e non ce ne accorgiamo. Parlo delle stragi del 92 e del 93, parlo di un caso che molti romani forse non conoscono, il caso di Rita Atria, una ragazzina contro la mafia, una piccola Antigone che si è ribellata alla costellazione familiare mafiosa, ha cercato di rompere questo schema e aveva un suo protettore che era, lui lo chiamava lo zio, era il giudice Borsellino. Quando ha appreso della morte del giudice Borsellino con la bomba di Via D'Amelio, ha deciso di buttarsi dal balcone. Lei stava a Via Amelia, vicino alla stazione Tuscolana. Quindi dal rinvenimento di questo cadavere, questa ragazzina di 17 anni, parto con un flashback in Sicilia e racconto la sua storia. Quindi Capitale Criminale è un po' questo, è oltre all'inchiesta, al sapore letterario, ci sono anche molte licenze poetiche che partono sempre dalla persona, dall'umanità, che viene portato al crimine. Che io mi ricorderò sempre un contenuto speciale di Cesare Devi Morire, un film dei Fratelli Italiani, dove si chiede a un detenuto fine pena mai, appunto, un camorrista che aveva fatto un'esperienza teatrale in carcere, com'era stata questa esperienza? E il camorrista dirà con un certo candore: ma se io sapevo che ci stava un teatro nella vita, ma io non lo facevo il camorrista. Ecco, quando racconto del Canaro, quando racconto della Magliana, quando racconto delle periferie, racconto di una realtà degradata dove dei ragazzi sono spinti socialmente a delinquere. Questa cosa va assolutamente risolta. La città eterna in che rapporto è con il crimine? Si fonda sul crimine, si fonda con l'omicidio di un fratello di Roma del Remo, si fonda con l'atto delle Sabine, cioè i nostri sanpietrini sono intrisi di sangue, di mistero, di sospetto. Ecco perché per esempio ho messo il caso di Beatrice Cenci, Metto Nerone, eccetera, perché è quasi connaturato insieme al potere l'aspetto criminale. Sono delle fiabe per adulti. Il crime, che adesso va molto in varie forme, in realtà sono fiabe per adulti che servono per esorcizzarlo il male, conoscerlo per esorcizzarlo. Ci dai dei riferimenti internet per saperne di più sul tuo libro e sul tuo lavoro? Il libro è edito dall'erudita Giulio Perrone Editore, e invece se si va su Spotify oppure se si va su Spreaker si possono ascoltare tutte le puntate di Capitale Criminale, prima stagione, che fa parte proprio del libro, seconda stagione, che è ancora in corso e adesso uscirà. Ho parlato adesso del caso del povero Willy con la giornalista di Repubblica, cronista d'inchiesta sui fatti di Ostia di Roma, Federica Angeli, sul caso di Willy Monteiro, ma adesso uscirà anche l'ultima puntata della seconda stagione sui vicini di Erba. Quindi il podcast si è abbastanza evoluto. Il libro ha una particolarità perché contiene nelle sue pagine il QR code, quindi volendo si può inquadrare col telefonino la pagina e si possono accedere a contenuti speciali. Il libro Capitale Criminale, Gialli e Misteri della Città Eterna, a Roma, Libri & Co, Piazza San Cosimato 39, mercoledì 22 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore Francesco Sala. Ci vediamo. Grazie Federico, grazie, un abbraccio a tutti voi, vi aspetto a San Cosimato. Con la fotografa Chiara Bruni per presentare la sua mostra A Volte. A Roma, Barlina, dal 18 febbraio al 25 marzo 2023. Ben trovata. Ciao, grazie. Grazie per questo invito. Ci racconti di questo evento? Questo evento nasce da una mia sperimentazione. Da fotografa non solo mi piace scattare fotografie, ma anche collezionare delle vecchie foto, delle vecchie cartoline. Quindi ho iniziato a collezionare delle cartoline di nudi d'epoca, femminili, e poi ho avuto questa geniale idea di andarle ad impreziosire o comunque ad intervenire su queste immagini con ago e filo, quindi cucendo manualmente, a volte delle scritte, a volte dei dettagli o qualcosa che potesse cambiarne il senso, perché ero molto affascinata da questi corpi che però, secondo la mia visione, hanno completamente perso il loro senso, ovvero erano state create queste immagini per un uso maschile, per un uso legato alla pornografia, al piacere maschile, invece io volevo che queste donne si riprendessero il loro corpo e fossero più consapevoli, ma anche avessero e dessero agli altri una visione ironica della loro fisicità. E quindi ho iniziato a fare questi interventi e a volte, che è uno spin-off del progetto più ampio che si chiama Sen News, è un mio testo personale che parla del sentimento più grande, più potente, che è l'amore, e questo testo io ho avuto l'idea di andarlo a tradurre, a trascriverlo su queste cartoline dedicando ad ogni donna una frase. E quindi un corpo di 30 cartoline racchiude questo testo proprio con un fil rouge, perché poi il filo che è stato usato è proprio effettivamente un filo rosso, le tiene insieme. Quindi diciamo che all'interno della mia collezione di cartoline, che sono molte di più, sulle quali sono andata ad intervenire in modi diversi, c'è questo testo invece che tiene insieme 30 cartoline. Leggevo che ci sono anche altri tuoi lavori oltre alle cartoline, o sbaglio? Come lavori ci sono le cartoline di A volte, ma anche le cartoline che non riguardano questo testo in particolare, ma abbiamo deciso di aggiungere anche un sound corner, ovvero una piccola mensolina dove sarà possibile ascoltare anche questo testo, che è stato registrato sempre da me, per dare la possibilità anche di dare la mia visione, perché le cartoline poi sono tutte scomposte nell'ambiente dove vengono mostrate, e invece il mio ordine è dato da questo audio dove io racconto questo testo. La scelta di questo titolo? A volte è la frase che apre ogni verso del mio testo, e quindi tutte le frasi iniziano con a volte vinco io, a volte no. A volte ti chiamerei, a volte vorrei che pronunciassi il mio nome, e così via. Quindi è stato inevitabile scegliere questa formula per presentare la mostra. Come hai organizzato l'allestimento? Abbiamo pensato di ridurre proprio al minimo gli ortelli e tutto quello che poteva essere convenzionale, come passepartout, cornici. Io volevo la possibilità che le persone potessero toccare queste cartoline, quindi le abbiamo lasciate proprio nude, trovando in modi molto creativi delle soluzioni che permettessero questa cosa, quindi di non andarle a bucare o a fare degli interventi, però siamo riusciti a trovare un sistema in cui appunto le cartoline sono tutte sparse sul muro più grande della sala di Barlina, che è lo spazio dove potrete visitare la mostra, e sono molto, molto semplici, volevo lasciarle nella loro integrità. Avevo pensato anche di fare delle stampe più grandi, però magari stravolgevamo un po' il senso che volevamo dare, anche perché l'idea è quella di una visione molto intima, quindi tu ti devi molto avvicinare per poter godere di questa visione. Ci piaceva questa vicinanza che poteva esserci tra l'opera e il fruitore. Ci dai tutti i riferimenti internet per la mostra e per il tuo lavoro in generale? Il mio lavoro potete trovarlo sul mio profilo Instagram, che è chiara_bruni_ph, e sempre su Instagram potete cercare Barlina, che è il nome di questo spazio molto, molto bello, che è aperto da poco qui a Scalo San Lorenzo, e se lo cercate è bar.lina, ed è uno spazio di cultura queer, di informazione e di divulgazione di cultura queer, e i ragazzi si occupano di diritti LGBTQ+, e appunto vogliono creare movimento, vogliono creare attenzione su degli argomenti che sembrano essere freschi quando in realtà esistono da tantissimo tempo, ma si sente oggi l'esigenza di avere un'attenzione maggiore.

È il momento dell'agenda per segnalarvi gli spettacoli della settimana, ma anche gli eventi culturali. Con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone! Buon pomeriggio a tutti e andiamo subito nel cuore di quello che offre la settimana teatrale romana e, come ormai di consueto, mi sono fatto piacere partire proprio dal punto meno noto e meno visibile probabilmente, ossia il Teatro di Tor Bella Monaca, perché ogni settimana presenta più di un appuntamento, insomma è importante dare uno spazio di visibilità proprio all'inizio secondo me. E lo spettacolo che apre questa settimana il Teatro di Tor Bella Monaca è il ritorno di Daniele Parisi, che scrive e dirige questo Io per te come un paracarro, titolo che piuttosto interessante, originale, divertente, che racconta di una coppia che sta per dare alla luce un figlio. I due decidono di partire e cercano un luogo dove costruirci un avvenire decente. È anche vero che i familiari di lui non riescono a dissuadere i due personaggi, l'uomo e la donna, dalla voler intraprendere questo viaggio. Quindi chissà dove dovranno arrivare, lo andiamo a scoprire da questa sera fino al 25 di febbraio, fino a sabato, al Teatro Tor Bella Monaca. Venerdì 24 e sabato 25 invece andremo a vedere anche Eretici in scena, l'autore del testo che è Tommaso Montanari, affiancato da Daniela Morozzi. Eretico dal greco vuol dire scegliere, l'eretico è colui che sceglie la scienza, l'arte, la politica, i diritti civili, la disobbedienza più ancora, in ogni caso la disobbedienza, e l'eresia è quello che in qualche modo fa parte della crescita, dell'evoluzione dell'essere umano. E 24 e 25 andremo a vederne questo spettacolo, appunto, che vede in scena lo storico dell'arte, accademico, saggista e giornalista Tommaso Montanari, che appunto cerca di raccontare che cos'è l'eresia, soprattutto nel tempo di oggi, nel tempo contemporaneo. La fine della settimana, domenica, invece, è per i più piccoli, perché la favola I vestiti nuovi dell'imperatore di Hans Christian Andersen sarà sul palco del Teatro Tor Bella Monaca, insomma, per questo spettacolo adatto ai più piccoli. Poi andrei al Teatro dei Serpi, perché il 25 e 26 febbraio, quindi sabato e domenica, andremo a vedere un testo di Luigi Pirandello con la regia di Luca Ferrini. Si tratta del Piacere dell'onestà, che cerca di affrontare uno dei temi cari a Pirandello: l'insurrezione della vita contro la forma in cui la si è costretta può non essere immediata, ci dice la scheda, allo scopo di sottrarsi a una vita di dissipazione e di crearsi una situazione tale che il marito di una signora per bene sia obbligato da essa a vivere onestamente, appunto Baldovino, che è il protagonista del Piacere dell'onestà. Questo rapporto tra la realtà, la volontà più che altro, e l'effettiva condizione in cui vive l'essere umano è un po' il tema del Piacere dell'onestà. 25 e 26 febbraio, il Teatro dei Servi con la regia di Luca Ferrini. Andiamo poi ancora all'Angelo Mai. L'Angelo Mai, perché dal giovedì 23 e venerdì 24 andremo a vedere questo Senza Titolo, spettacolo di e con Elena Bastoggi, sul grande tema del nostro tempo, che è la questione della rappresentazione del mondo attraverso le parole. Ogni cosa, ci dice la scheda, ha un nome che non ha senso se non in relazione al suo collocamento, cioè in relazione alla sua, in qualche modo potremmo dire, alla sua funzione all'interno della società in cui quella parola appare, in cui viene pronunciata. E questo è un po' il senso che lega il linguaggio all'estetica, al linguaggio all'evoluzione sociale, che lega in qualche modo gli oggetti, i corpi al tempo. Questa è la riflessione di Elena Bastoggi, che andremo a vedere all'Angelo Mai 23-24 febbraio con Senza Titolo. Poi mi piace ricordare che al Teatro Basilica ieri è partito un appuntamento che poi vedremo durante i vari lunedì fino ad aprile, e che mette in scena delle storie di donne estreme. Gli appuntamenti sono curati da Davide Brullo, e ieri appunto si è aperto alle ore 19 con Grida dai tetti, il suo amore per me, di Marina Svetajeva, e con appunto l'interpretazione di Clara Galante. Andremo poi a vedere nei prossimi appuntamenti quali saranno le altre parole, le altre donne che verranno messe in scena. Teatro Sofia porta invece dal 23 al 26 febbraio questo testo, si chiama Fantasme, tratto dal libro di Claudio Marrucci e Carmela Parissi, che si chiama Fantasmi, appunto come il titolo dello spettacolo, da Messalina a Giorgiana Masi, come e dove incontrarle. Chiaramente un titolo che ha una qualche ironia che suppone a questo ragionamento, a questa riflessione attorno alle fantasmi, cioè alle storie di donne in qualche modo accomunate da un sottile filo rosso, no? Una volta morte il loro spirito non abbandona mai questa terra, ecco, le loro storie, il loro in qualche modo l'esempio per il quale in ogni caso sono morte, sono scomparse dal mondo, le fa restare nel mondo poi per il tempo successivo. 23-26 febbraio a Teatro Sofia per Fantasme. Poi lo spazio Research, andiamo a vedere il 25 febbraio Symbiosis di Nadia Caggeggi e Agnese Canicattì. Symbiosis dal greco vuol dire vivere insieme, cioè l'esigenza di indagare il rapporto simbiotico che c'è, insomma, tra legami che c'è tra due specie viventi, e il rapporto che, insomma, riguarda sia la biologia che la psicologia. Ecco, l'idea principale di questa coreografia, perché siamo in uno spettacolo di danza, è proprio questa: associazione e coesistenza, stretto rapporto, compenetrazione di elementi diversi. Due repliche alle 21 e alle 22, il 25 di febbraio per Symbiosis allo spazio Research di Roma. Poi al Teatro Belli Anna Gualdo viene a presentare questo testo di Hannah Arendt, testo pluriconosciuto della filosofa tedesca Hannah Arendt, ovvero sia La banalità del male, dal 23 al 26 di febbraio al Teatro Belli, in cui, insomma, si riflette sulle cause e soprattutto sugli effetti che il male ha nella vita di ogni giorno, come viene poi compitato, concertato, come resta poi nella storia dell'uomo. Questo appunto al Teatro Belli, 23-26 febbraio. Seguo con il Teatro Quarticciolo con due appuntamenti. Il primo, venerdì 24 febbraio, con Mirrors, scritto e diretto da Emilia Martinelli. In scena Jessica Bertagni e Michele Breda andranno a portare questo spettacolo sul cambiamento, che è lo spunto per raccontare storie in vivi con cui i protagonisti si sentono fuori posto, e da queste si dipana una ricerca per trovare appunto un equilibrio ispirato alla storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Mirrors, in qualche modo, è uno spettacolo che ha a che vedere con l'identità. 24 febbraio Mirrors al Teatro Quarticciolo. Seguo al Teatro Quarticciolo perché il 25-26 febbraio, sabato e domenica, andremo a vedere anche Cattivo, una regia di Giuliana Musso con in scena Tommaso Banfi, tratto dal romanzo Cattivi, firmato da Maurizio Torchio per Einaudi. E attenzione, perché questo è un spettacolo che ci potrebbe interessare anche più da vicino, perché è la storia di un detenuto condannato all'ergastolo che viene dimenticato nella cella di isolamento di un carcere isola. Questa è una storia paradossale, ma chissà se è poi così paradossale. In effetti, nel periodo delle tante riflessioni su Alfredo Cospito e del ruolo che ha poi la detenzione all'interno della vita attiva o non poi così attiva degli esseri umani, all'interno delle scelte, all'interno delle libertà individuali. 25-26 febbraio al Teatro Quarticciolo per Cattivo, con Tommaso Banfi. Fortezza Est, l'ultimo appuntamento con i Tre Barba, con la lirica pop, e portano ancora i Tre Barba, cioè Lorenzo Deliberato, Alessio Esposito, Lorenzo Garupo, questo spettacolo, questo sono tratto appunto dal Don Giovanni di Mozart e con il libretto Rita Ponte, il classico famoso libretto Rita Ponte, e mescolando, diciamo, questa versione ironica e grottesca a contaminazioni musicali, inserti pop e più contemporanei. 23-25 febbraio per questo divertente spettacolo alla Fortezza Est. Questa settimana è anche la settimana di un festival un po' più fuori, che si svolge a Tivoli, e dove ci sono un po' di appuntamenti, insomma. Io poi segnalo, andare magari a vedere sul sito della compagnia teatro a.it le informazioni un pochino più diffuse. Io segnalo sicuramente, per esempio, che ci sono spettacoli soprattutto per i più piccoli che andranno in scena da questa sera fino al 25 di febbraio, quindi insomma qualche informazione in più da andare a prendere sul loro sito per questo spettacolo, questo sogno festival appunto che va in scena a Tivoli fino al 26 di febbraio. Poi noi parliamo del Teatro Argo, perché dal 23 al 26 di febbraio ritorna la compagnia Teatro di Lina per portare in scena l'Asino d'Oro con Francesco Colella e Francesco Laggi, che appunto presentano questa riscrittura contemporanea del grande classico di Apuleio. Un uomo si ritrova per rito magico trasformato in asino, perde la voce, l'aspetto che aveva, appunto perde l'identità. Solo mangiando delle rose potrà tornare quello che era. E insomma, nelle avventure, nei tragici amori romantici, nelle fughe vertiginose, tradimenti di questa storia, c'è molto anche di contemporaneo. Questo è quello che ci va a raccontare Teatro di Lina, 23-26 febbraio, l'Asino d'Oro al Teatro Argo Studio. Poi, ultimi appuntamenti, dunque direi di andare al Teatro Quirino, anche per ricordare rapidamente di Uomo e Galantuomo di Edoardo De Filippo con la regia di Armando Pugliese, che vede Geppi Gleiesis e Lorenzo Gleiesis in scena, e la partecipazione di un attore che magari non frequenta tantissimo i palcoscenici teatrali ma conosciamo bene per il cinema, ovvero Ernesto Maiù. È un testo in tre atti di Edoardo, scritto nel 1922, è un meccanismo comico molto particolare, è la storia di una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Questo è quello che poi cercheranno di mettere in scena padre e figlio Gleiesis con la regia di Armando Pugliese dal 21 febbraio, che è oggi, fino al 5 di marzo, Uomo e Galantuomo, Teatro Quirino. Teatro Palladium, uno spettacolo in prima nazionale per l'autore franco-algerino Hakim Jazidi, con la regia di Valentina Favella in Italia, che ha curato anche la traduzione. Questo spettacolo si chiama Disallineato ed è basato sulla performance di un unico attore, Nur Zafi, sostenuto da Cristian Lanzante e Maria Grazia Pompei. Sarà sul palco del Teatro Palladium e racconta di un'infanzia felice trascorsa in un bossolo familiare protettivo, l'avanzata dell'integralismo in Algeria, vissuta dall'interno, l'esilio, poi l'odio, la violenza, i sogni negati, la perdita dell'identità e la consolazione trovata poi nella religione fino a dimenticare le regole fondamentali della vita sociale. Questo è Disallineato, che andiamo a vedere il 24 febbraio al Teatro Palladium. Ultimi appuntamenti e ci siamo. Il primo è il ritorno a Roma di Tavola Tavola, Chiodo Chiodo di Lino Musella, che insieme a Tommaso De Filippo trae dagli appunti, gli articoli, le corrispondenze, i carteggi di Edoardo De Filippo, e sarà in scena dal 21 al 26 febbraio al Teatro Vascello. Due appuntamenti ancora. Il primo al Teatro Argentina, per un oui o per un non, cioè per un sì o per un no, Umberto Orsini e Franco Branciaroli presentano questo testo di Natalie Serrault, che va in scena da oggi fino al 5 di marzo con la regia di Pierluigi Pizzi. È uno spettacolo a due che gioca sull'ambiguità delle parole, il detto e non detto, il valore delle insidie del linguaggio, e l'incontro di due vecchi amici che si ritrovano dopo una lunga separazione e quindi si provocano dei malintesi, dei toni particolari, controversi. Questo è quello che andremo a vedere dal 21 febbraio, che è oggi, fino al 5 marzo al Teatro Argentina, ma probabilmente il debutto della settimana prevede l'arrivo a Roma dello spettacolo Nottuari di Fabio Condemi. Fabio Condemi, uno dei maggiori registi italiani contemporanei, ben prodotto, devo dire, insomma, da Teatro di Roma, l'Ac di Lugano, Piemonte, Metastasio di Prato, Erte Emilia Romagna Teatro, insomma, uno spettacolo iperprodotto in prima nazionale al Teatro India dal 22 di febbraio fino al 5 di marzo, quindi debutta domani, ispirato ai racconti di Thomas Ligotti, un scrittore contemporaneo di horror che per esplorare questi lati oscuri del reale che fanno sbiadire le linee di confine dal sogno all'incubo in una sorta di vagare ipnotico che vedremo in scena, una installazione labirintica di spazi mutevoli, dedali, labirinti appunto, corridoi, ingressi, zone buie. Questo è il lavoro di Fabio Condemi con Nottuari, con la scena e la drammaturgia dell'immagine firmate da Fabio Kerstich, ma piacere ricordarlo perché per come è segnalato lo spettacolo probabilmente ha una particolare rilevanza. Quindi dal 22 febbraio al 5 marzo, Teatro India, Nottuari di Fabio Condemi. E con questo è tutto, ciao! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.